E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, in diretta dagli studi di Radio 24 con l'Altra Europa, il nostro appuntamento settimanale per viaggiare attraverso il continente. Cerchiamo di respirare questa cultura europea e lo facciamo a modo nostro, cioè dandovi notizie anche curiose, cercando di raccontarvi un'altra attualità, un'altra cronaca, ma non solo, sfioriamo poi anche temi importanti. Le coordinate per intervenire in diretta potete farlo via email, l'altraeuropa@radio24.it, oppure attraverso la nostra pagina in Facebook, dove pubblicheremo poi via via in diretta tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Un programma in collaborazione con Euronet, www.euronet.eu. Si parte per questo viaggio. Oggi partiamo parlando di politica e bikini, ma non siamo in Italia. Bella, indipendente e competente, questo è lo slogan che ha scelto Sara Mai, questa cantante polacca di cui stiamo ascoltando uno dei pezzi più famosi in Polonia, e questa cantante che ha deciso di candidarsi alle elezioni amministrative che si terranno a breve a Varsavia e ha scelto come propria immagine questa fotografia scattata in una spiaggia in bikini con fare molto suadente, sperando di acchiappare qualche voto. Insomma, per capire come è stata presa questa cosa che fa anche sorridere in Polonia e Varsavia, abbiamo convocato la nostra corrispondente ormai da Varsavia. Lei è un'esperta di cinema, lavora nell'istituto cinematografico, se non erro, polacco. Diamo il benvenuto a Paulina Beste. Ciao Paulina. E ciao Federico. Ciao, ben ritrovata. Saluto da Varsavia. che tempo fa a Varsavia, intanto, che ci piace così sondare in diretta le temperature? Freddissimo? Purtroppo oggi piove, fa freddo. Varsavia è grigia, è brutta però. Ecco, guarda, è uguale a Milano. Quindi non ci sono differenze. Paulina, allora tu hai già scelto di votare Sara Mai? Sai, io purtroppo non posso votare per lei perché lei è una candidata in un quartiere, sì. Vuole essere nelle autorità di un quartiere Bemovo e io abito in un altro quartiere, dunque non posso votare per lei purtroppo, ma mi piacerebbe tantissimo. Ah, sì? Cioè, perché ti ha intrigato questa storia? Io penso che lei è veramente una ragazza in gamba, no? Che è intelligente. Ho letto il suo programma. Sì? Lei dice le cose buone, le cose belle, che vuole cambiare la realtà nel suo quartiere, dunque perché no? Ovviamente il suo caso ha suscitato tante polemiche, non solo a Varsavia, ma ovviamente in Polonia, sì, in tutto il mondo, il modo in cui lei si è presentata su questa foto. Allora, noi diciamo che abbiamo pubblicato sul profilo Facebook dell'Altra Europa, facebook.com/l'altraeuropa, la sua immagine, che in effetti è un'immagine interessante, cioè è sicuramente una bellissima ragazza, e sembra più una pubblicità in effetti di indumenti intimi che una pubblicità elettorale, però ha fatto colpo. Certo che ha fatto colpo, ma io sto pensando se lei veramente ha fatto questa cosa per essere eletta, per diventare una politica, oppure ha fatto questa cosa per caso che lei è una cantante, sì. Certo. A dire il vero non è tanto famosa in Polonia, non so, forse io non ascolto questo tipo di musica, però io ho sentito di lei proprio a proposito di queste elezioni. Sì. Ah, quindi era abbastanza sconosciuta? Pensando che forse lei vuole fare questa cosa per farsi la pubblicità, no? Insomma, questo può anche essere, mi sembra un'ottima suggestione la tua. E tra l'altro, Sara Mai è il nome d'arte. Io non oso pronunciare il suo vero nome. Ci vuoi provare tu? Sì, Katarzyna Szczołek. Katarzyna Szczołek. Sì, questo è un problema perché lei... più persone credo la conoscano come Sara Mai, sì, e poi avranno il problema per trovarla sulle liste di elezioni, perché sarà il suo vero nome, questo Katarzyna Strzałecki. Questo è anche un problema. Abbiamo anche il sito che è saramai.pl, se volete conoscerla, insomma un bel sito tra l'altro, però ci confermi che anche come cantante è abbastanza poco nota lì in Polonia, o comunque non è il tuo genere. Veramente, non ho sentito tante volte parlare di lei, no? Non sono mai stata nel suo concerto, sì, dunque. Ma Paolina invece... Almeno lei non è una persona molto, molto, molto famosa e molto conosciuta, sì. Certo, però ecco, appunto, hai detto che ci sono state anche polemiche, si è parlato molto di questo caso sui quotidiani, sì, sulla televisione, e qual è un po' l'opinione diffusa? Quali sono stati i commenti più ascoltati? Cioè, i commenti sono molto divisi, perché un gruppo di persone dice che sì, che lei ha fatto una cosa buona, perché non fare così? Mm-hmm. Se veramente, forse facendo così lei può ottenere più voti, sì. Sì. Ma c'è anche questo secondo gruppo che dice che lei non ha fatto questo per la causa di politica, però per lei stessa, no? Ok. Questo è un problema. Questa è la diatriba che c'è in corso. Quando saranno le elezioni? E domani. Ah, ok, quindi siamo proprio sul pezzo. Domani, ma questo possiamo dire che è la prima manche, sì? Sì. Delle elezioni, e fra due settimane sarà anche... la seconda parte, okay, delle elezioni, sempre così in Polonia. Quindi, elezioni amministrative a Varsavia, e qual è la situazione? Chi è il candidato più... Chi sono i candidati in gara? Chi vincerà? Si sa già? Ci sono delle previsioni attendibili? Cioè, perché come io ho già detto, questo riguarda, saranno le elezioni per il presidente di Varsavia, no? Che è la persona che governa la nostra capitale, e ovviamente anche queste elezioni per le persone, per l'amministrazione dei quartieri, sì? Sì. Dunque io non posso dire, okay, qual è adesso il risultato, per esempio, di Saramai, ma in generale, per quanto riguarda il presidente di Varsavia, penso che... il presidente, che la presidente che abbiamo adesso, Hanna Gronkiewicz-Waltz, è una donna. Sì. Lei di sicuro è lei potrebbe... sarà eletta per la seconda volta. Ok, sarà confermata. Ma c'è attesa per queste elezioni? Credo che sì. Sì, ok, però sì. Non ti ho sentito particolarmente con particolarmente entusiasmo, però sì, ci sono, si fanno, insomma, è un momento politico importante, ma è autunno, Varsavia piove ed è grigia, e questo è un po' l'umore che traspare anche dalle tue parole. Grazie davvero, Paolina, per averci raccontato questa curiosa storia. Ci ritroveremo sicuramente in onda qui all'Altra Europa, ok? Sì, certo, è stato un grandissimo piacere per me. Ciao. E ti saluto e saluto gli ascoltatori della radio. Ciao Paolina, buon sabato. L'Altra Europa, ogni settimana scegliamo anche un tema comune che trattiamo con tutte le altre radio d'Europa che appartengono al network euronet.eu. È un bel modo per avere tanti punti di vista su argomenti che comunque diventano un po' il filo conduttore di questa Europa unita, però ogni nazione ha le proprie caratteristiche, il proprio approccio, e ci piace quindi anche mettere a confronto le varie voci, che potete ritrovare poi in oltre 15 voci sul sito di Euronet, www.euronet.eu. Oggi parliamo di un tema tosto, del tema delle pensioni in Europa. La riforma delle pensioni in Europa è diventata una questione scottante negli ultimi 15 anni, questo strano continente che in parte invecchia tantissimo, poi però ci sono nazioni anche molto giovani, e quindi la questione è complicata, e abbiamo visto quello che è accaduto poche settimane fa in Francia con l'innalzamento dell'età pensionabile. Insomma, per fotografare un po' la situazione e capire quelle che sono o che possono essere le prospettive, abbiamo invitato un docente dell'Università di Bologna e coordinatore scientifico dell'Osservatorio Sociale di Bruxelles, quindi ha veramente il polso della situazione, insegna analisi delle politiche pubbliche e politiche del lavoro e pensionistiche nell'Europa Unita. Diamole benvenuto a David Natali. Ciao David, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Com'è essere esperti di pensioni? Come si diventa esperti di pensioni europee? È un percorso un po' strano. Diciamo che io ho iniziato a lavorare sul tema una decina di anni fa. Sì. Mi sono occupato di politiche sociali fin dal corso di laurea. Successivamente mi è stato proposto quasi per caso di occuparmi in special modo di pensioni e poi, come spesso succede, ci si appassiona del tema e si acquisiscono una serie di conoscenze e quindi si finisce per investire sul tema. Insomma, e tu hai investito tanto e veramente sei probabilmente una delle persone più competenti attualmente su questa questione. Grazie. E tra l'altro con questa doppia visione anche, no? Quella dall'Italia ma poi anche dall'Osservatorio Sociale di Bruxelles, che ci vuoi raccontare che cos'è e cosa fate? Allora, il nome è Osservatorio Sociale Europeo. Sì. Praticamente si tratta di un think tank, io mi sto occupando dell'accordinamento scientifico, soprattutto legato in questo anno alla presidenza di turno dell'Unione Europea da parte del governo belga, avendo sede ovviamente a Bruxelles. Questo think tank ha anche rapporti con il governo di quel paese e praticamente si analizzano in quell'ambito tutte le questioni più legate al processo di integrazione europea relative alle politiche sociali, certo. Quindi non solo politiche pensionistiche ma anche politiche del lavoro, politiche di lotta alla povertà, tutela delle minoranze e così via. Ho capito. David, insomma, so che la domanda non è facile, però tentiamo. È possibile fare un'istantanea della situazione attuale e del rapporto tra l'Europa e le pensioni? Cosa sta accadendo? A che punto siamo? Ma diciamo che l'esperienza di molti paesi dell'Unione Europea negli ultimi 20 anni è stata di un lungo processo di riforma. Quindi diciamo che i rischi o comunque le sfide per la sostenibilità futura dei sistemi pensionistici non sono una novità. Come tu hai ricordato, effettivamente nelle ultime settimane la vicenda francese ha raccolto un po' l'attenzione dell'opinione pubblica europea. Si tratta però di un tema che sostanzialmente già dagli anni 80 è entrato a far parte dell'agenda dei governi nazionali. E sempre di più, soprattutto a partire dal nuovo secolo, l'Unione Europea ha iniziato ad occuparsi lei stessa del tema pensionistico, nonostante in base ai trattati non abbia una competenza esclusiva in materia. Sì. Quindi sostanzialmente sono ancora gli Stati membri e i governi nazionali che si occupano di gestire questa politica. Però l'Unione Europea è intervenuta cercando di coordinare le risposte nazionali a fronte di problemi e sfide che sono in larga parte comuni. Un tema, come tu hai ricordato, è quello dell'invecchiamento demografico. Sostanzialmente la società europea è una società che invecchia, il che è una notizia positiva, nel senso che la speranza di vita si è accresciuta nel corso degli ultimi decenni, il che però significa, da un punto di vista pensionistico, che i conti, soprattutto della previdenza pubblica, tendono ad essere sempre più squilibrati, semplicemente perché con l'invecchiamento della popolazione un numero sempre maggiore di cittadini è in età pensionabile e quindi hanno diritto a ricevere dei benefici, certo. Mentre il numero dei lavoratori attivi tende a ridursi. Questo ovviamente determina una riduzione delle entrate fiscali o contributive e un aumento invece delle spese, il che determina queste tensioni finanziarie e di bilancio che hanno portato molti paesi europei a introdurre delle riforme. Ma arriveremo, secondo te, a avere delle regole comuni tra le varie nazioni o ha senso, cioè avrebbe senso avere queste regole comuni? No, diciamo che siamo ancora molto lontani da avere un unico modello pensionistico europeo o addirittura una competenza principale dell'Unione in questo settore. Diciamo però che c'è un processo di convergenza tra i diversi paesi, per ora è una convergenza limitata, che però ha portato, ad esempio, proprio attraverso quelle riforme di cui parlavo in precedenza, ad avere sostanzialmente un percorso comune, sì, in larga parte comune, dei diversi paesi europei, che ad esempio stanno strutturando il proprio sistema pensionistico attraverso l'interazione di quelli che in gergo previdenziale si definiscono i diversi pilastri. Quindi accanto al pilastro pubblico in molti paesi si è andato sviluppando anche il pilastro privato, ovvero la previdenza integrativa. Ecco, ti viene in mente un progetto pilota o una nazione che è un po' il faro di questa nuova prospettiva legata alle pensioni? Diciamo che in termini di riforme, per una volta l'Italia non è indietro, diciamo così, rispetto agli altri paesi europei, semplicemente perché il nostro è un paese in cui l'invecchiamento demografico è più evidente e in cui, come sappiamo, i problemi della finanza pubblica datano almeno di 30 anni. l'Italia è stata uno dei paesi che per prima si è lanciata, diciamo così, nel processo di riforma, attraverso le riforme che a partire dal governo Amato dell'inizio degli anni 90 fino al protocollo sul welfare del 2007 hanno prodotto questa ricalibratura, diciamo così, del sistema previdenziale verso un sistema che tende, diciamo così, ad integrare una previdenza pubblica che è ancora il pilastro fondamentale, ma anche una previdenza integrativa che si è sviluppata nel corso di questi anni, seppure in modo ancora probabilmente insufficiente. A livello europeo, probabilmente l'esempio più significativo di riforme capaci di modificare lo status quo è stata la Svezia, che ha introdotto quasi in contemporanea con l'Italia, quindi durante gli anni 90, un nuovo sistema pensionistico che in larga parte riprende molti dei meccanismi che i governi italiani hanno introdotto. Quindi ad esempio una ridefinizione, diciamo così, delle prestazioni nell'ambito del pilastro pubblico e dall'altro lo sviluppo della previdenza integrativa attraverso i fondi pensione sia di tipo professionale, occupazionale che di tipo individuale, che hanno raggiunto una copertura quasi universale nel caso svedese. Davide, ma tu ci pensi già alla tua pensione? Allora, diciamo che la prima idea è quella di non pensarci, perché ho 40 anni, quindi diciamo che ho ancora un po' di tempo per raccogliere un po' i soldi, le risorse, per garantirmi una buona vecchiaia. Sarebbe però bene che in realtà la mia generazione e anche quelle più giovani iniziassero da subito in realtà a pensare alla propria previdenza. Anche perché proprio a conseguenza delle riforme introdotte negli ultimi 20 anni, proprio diciamo a partire dalla mia generazione e quelle ancora più giovani, avranno in realtà una previdenza pubblica molto più parsimoniosa, diciamo così, molto meno ricca di quanto non sia avvenuto per ad esempio mio padre o le generazioni passate. Quindi avremo una pensione pubblica molto più bassa. Nel mio caso, ad esempio, posso pensare di avere una pensione pari al 40% della mia ultima retribuzione, il che ovviamente non mi garantisce una buona vecchiaia, e quindi devo in qualche modo ingegnarmi per integrare questa pensione pubblica con qualcos'altro, che può essere un investimento immobiliare piuttosto che appunto accendere un fondo pensione di carattere professionale o individuale. Diciamo che poi questa parola ingegnarsi è un po' il filo conduttore della nostra generazione e di quelle successive, quindi insomma saremo pronti anche in quello. Grazie davvero Davide per il tuo contributo e in bocca al lupo per il tuo importante lavoro sia all'interno dell'università sia a Bruxelles con l'Osservatorio Sociale Europeo. Ciao e buon sabato. Anche a voi. Questi sono i nostri Europost-it, tutte le dritte, tutti i link li potete trovare sul nostro sito radio24.it oppure sul nostro profilo in Facebook. Cambiamo argomento, parliamo di radio ed Europa. Lo facciamo insieme a una giornalista in stage a Nantes, dove c'è questo programma molto molto particolare. Ci ha contattata attraverso la nostra mail e diamo il benvenuto a Licia Caglioni. Ciao Licia! Ciao Federico. Buon sabato. Sei lì? Sei in Francia in questo momento? Sì, sì, sono a Nantes. E cosa stai? Allora, non ho, sai che non ho davvero capito quello che state facendo. È una radio che di fatto però non è una radio, o comunque anche una radio locale, ma a diffusione europea? Esatto, noi siamo una radio locale basata a Nantes, quindi diffondiamo sul circuito RCN FM. Nella regione di Nantes, ma siamo anche una radio europea, quindi abbiamo una web radio allo stesso tempo. Come si chiama questa radio? EU, come Europa, sì. Radio Nantes. Ok, allora mettiamo in diretta il sito euradionantes.eu, ma tu Licia di dove sei? Bergamo. Ah sì, però hai già un accento internazionale, lo sai, vero? Sì, abbastanza. Diciamo che da un po' che non torno a casa definitivamente, quindi l'accento l'ho un po' perso. Ho capito. No, adesso invece però parlando di casa ti è tornato. Voilà. Ecco. Ich komme aus Deutschland und ich mache ein Praktikum bei Euradio Nord. Je m'appelle Valérie Wacker, je suis suissesse et je fais un stage chez Euradio Nord. Euradio Nord. Euradio Nord. Euradio Nord. 101.3. 101.3. Questo è il promo di Euradio Nantes, www.euradionante.eu. Con noi Licia Caglioni, giornalista in stage in questa radio particolare, questa radio partecipativa che diffonde con le proprie frequenze nell'area francese, ma poi via web in tutta Europa. Allora, Licia, che cos'è nei fatti questa radio, questo progetto? Perché è nato e come si può partecipare? Allora, il progetto è nato nel 2007, siamo ormai all'equipe numero 8 di stagisti. Quest'anno siamo 9 stagisti provenienti da tutta Europa e abbiamo 3 giornalisti francesi che ci seguono in redazione durante il lavoro di giornalisti. In pratica ci occupiamo un po' di tutti gli aspetti del lavoro in radio, quindi ci occupiamo di interviste, sì, reportage, siamo liberi, abbastanza liberi di scegliere i soggetti da trattare. Per lo più trattiamo di Europa, di giovani, dell'aspetto sociale. Ma facciamo anche, impariamo un po' a usare la tecnica radio e l'animazione all'antenna, mm-hmm, anche in francese per lo più. Ma quindi c'è un palinsesto quotidiano, cioè sì, 24 ore al giorno, c'è anche musica? Sì, sì, abbiamo musica e per quanto riguarda la musica promuoviamo soprattutto etichette indipendenti, sì, europee. Mm-hmm. E ci sono le news che invece sono presentate dai tre giornalisti francesi. Ma il materiale lo reperiamo tutto noi, quindi scriviamo noi le notizie e poi loro le presentano. Ok, quindi una radio in lingua francese? Per lo più in francese, abbiamo 5 ore al giorno però di animazione in inglese. Ho capito. E avete collaboratori in giro per l'Europa, nel senso che è facile partecipare a questo progetto, ci si può proporre, ci si può candidare? Esatto, infatti per febbraio 2001, perché l'equipe durano solo 6 mesi, perché è una radioscuola, quindi gli stagisti cambiano di 6 mesi in 6 mesi. Io per esempio finisco a febbraio 2011, a febbraio entrerà una nuova squadra di stagisti, quindi appello a tutti quelli interessati di mandare le proprie candidature e sul sito ci sono tutte le informazioni per mandare candidature, CV e tutto. Certo, beh, insomma, immagino una bella esperienza di vita ma anche una bella esperienza professionale. Hai imparato di più a conoscere la radio o hai imparato di più a conoscere l'Europa stando lì? Beh, entrambe allo stesso tempo, perché impariamo tantissimo a fare giornalismo andando sul terreno, facendo interviste e allo stesso tempo abbiamo imparato a utilizzare il media radiofonico non solo a livello locale ma ad un livello che è un livello europeo, certo, in diverse lingue, quindi migliorato molto le lingue anche. E certamente l'Europa, perché lavorando con 8 o 9 persone provenienti da tutto il mondo, da tutta Europa, si hanno differenti modi di affrontare gli soggetti, quindi non solo in chiave comparatistica poi li affrontiamo, ma proprio anche a livello istituzionale, cercando di vedere come i problemi del locale possono essere affrontati o sono affrontati a livello istituzionale europeo proprio. Mm-hmm. Licia, tu hai studiato a Bologna, però hai vissuto per un lungo periodo in Danimarca, adesso sei lì a Nantes, quindi respiri l'Europa quotidianamente anche col tuo lavoro. Ecco, che Europa vedi tu? Cioè, se uno ti chiedesse qual è lo stato attualmente dell'Europa, qual è la prima risposta istintiva che ti viene? Per quanto mi riguarda, un'esperienza bellissima che dovremmo riuscire a sfruttare il più possibile, perché dà davvero davvero tante opportunità di crescita professionale e anche soprattutto personale, perché si incontrano persone diverse e si possono fare tantissimi scambi interessanti. Euradionante.eu per ascoltare la radio, ma anche per trovare tutte le informazioni nel caso siate interessati a partecipare a questo progetto. Lì c'è ancora qualche mese, che ne so, magari ci risentiamo se trovi qualche notizia curiosa e voglia di raccontarcela anche nella nostra radio, noi siamo qua, va bene? Assolutamente. Ciao, grazie, buon sabato. Ciao ciao, ciao, ciao. Europost-it. 10 anni nei Balcani. Il 27 novembre a Rovereto, l'Osservatorio Balcani e Caucaso festeggia i 10 anni di attività con l'evento Cittadini d'Europa, un convegno e una serata dedicata. L'Osservatorio Balcani e Caucaso è punto di riferimento per chi si occupa dell'Est Europa. È un progetto nato sul web nel 2000, una sorta di centro studi e servizi, ma anche un giornale online sempre aggiornato grazie ai numerosi corrispondenti e collaboratori sparsi nella regione. Il sito è balcanicaucaso.org. Non c'è giorno che non sia una giornata europea di qualcosa, non c'è settimana che non sia una settimana europea di qualcos'altro. E inizia oggi la settimana europea per la riduzione dei rifiuti 2010, è una settimana importante di sensibilizzazione appunto alla riduzione della produzione e di rifiuti, e anche noi vogliamo parlarne, però ovviamente a nostro modo. Abbiamo cercato di trovare una storia, di trovare un approccio diverso, e l'abbiamo trovata questa storia. Lui si chiama Tekkai Hamedi, è belga ma vive sugli Appennini reggiani, in Italia da 3 anni, e insieme alla moglie dal 1 gennaio del 2010 hanno iniziato un esperimento molto particolare, raccontato nel sito www.chilopesa.it, e l'esperimento è quello di pesare tutti i rifiuti prodotti nella loro casa, proprio per acquisire una consapevolezza di tutto ciò che viene gettato via ogni giorno. Quindi un'operazione che è molto vicina a quella promossa dalla settimana per creare sensibilizzazione su questo argomento. Diamole il benvenuto a Tekkai Hamedi. Ciao Tekkai. Ciao. Ciao. Oggi hai già fatto la tua pesata quotidiana? Non ancora, un po' presto. Non ancora. Allora, Tekkai, insieme a tua moglie avete fatto questa scelta, che intanto è una scelta difficile, complicata? È un po' impegnativo, sì. Perché? Cioè, raccontaci un po' cosa succede. Cioè, voi andate in cucina, andate, che ne so, a preparare il pranzo e scatta la produzione di rifiuti. Mm-hmm. E poi alla fine giornata pesiamo i rifiuti e le mettiamo nel blog e poi andiamo a buttarli. Ho capito. Ma li pesate tutti insieme o fate anche una sorta di no, differenziata? No, facciamo la differenziata. Ho capito. Che c'è in comune, dunque, uh-huh. La plastica da una parte, il vetro, l'organico. Ok. Quindi insomma, tra la produzione dei rifiuti e andare a gettare negli appositi bidoni questi rifiuti, passate anche dalla bilancia e poi segnate giorno per giorno quanto avete prodotto? Sì, esatto. Uh-huh. Un modo un po' per prendere in coscienza di quello che si butta tutti i giorni, e anche per riflettere a quello che non dovrebbe essere buttato, come fare per ridurre i rifiuti. Sono passati 11 mesi, più di 11 mesi dal 1 gennaio. Ecco, e quindi avete già qualche dato importante, è quasi arrivato il momento di fare un po' di verifiche. Qual è la fotografia della situazione? Cosa avete capito fino ad oggi guardando i chili che avete prodotto per i vari settori di rifiuti? Allora, è molto complicato provare a ridurre i rifiuti, perché per esempio per la plastica, tutti gli imballaggi. Bisogna trovare il modo di, soprattutto quando si compra, di trovare meno plastica, meno imballaggi, sì. Andare a comprare più spesso e cercare anche di riciclare, di riusare quello che si può. Ho capito. Ma numeri alla mano, la produzione maggiore di rifiuti in cosa consiste? Allora, per noi è l'umido, perché abbiamo anche l'orto e dunque facciamo il compost e dunque tutti gli avanzi di cibo, sono 80 kg fino adesso, sì. Il maggiore peso. Poi c'è l'indifferenziata, sono 50 kg, e poi viene la carta, la plastica e il vetro. Mm-hmm. Quindi non avete solo pesato, ma avete anche cercato di fare delle piccole politiche familiari per la riduzione. Prima ci accennavi, per esempio, ad acquistare oggetti sfusi in modo da non usare gli imballaggi. Poi ci sono altre scelte importanti che avete preso? Abbiamo lanciato il composto a quel momento, sì. Per non buttarlo nell'indifferenziata e cercare di recuperare questo tutto umido che diventa composto. E poi sì, ma da noi è un po' complicato, perché sai, siamo in montagna, non c'è sempre il negozio di prodotti sfusi. Certo. E dunque anche siamo un po' limitati, devo dire. Allora, intanto ricordo il sito che è chilopesa.it, che in questi mesi è diventato anche un blog, un po' un punto di riferimento, no? Sì. Sulla sostenibilità. Sì. E ci sono veramente tante dritte, tanti consigli, tanti confronti anche su mille tematiche diverse. Tecaia, tu ti sei trovato in Italia, la tua compagna, tua moglie ti ha convinto a fare questa cosa, però tu eri arrivato nel nostro paese già con un approccio diverso rispetto ai rifiuti, nel senso che l'esperienza belga è molto diversa da quella italiana? Devo dire, la scelta di pesare i rifiuti non è molto strano, perché nella mia provincia di Liegi stanno facendo una campagna, una modalità di raccolta dei rifiuti basato sul peso. Dunque c'è un chip elettronico sul contenitore e tu paghi la bolletta della spazzatura in base a quello che hai buttato. Ah, quindi è assolutamente innovativa. E quindi, sì. Anche lì ovviamente è differenziata, però viene pesato tutto ciò che tu produci. Allora, tu hai due contenitori, sì? Uno per l'indifferenziata e uno per l'organico. Questi sono pesati e poi c'è anche la carta, la plastica che metti da parte, che viene una volta a settimana, c'è il porta a porta. Ho capito, quindi una cultura completamente diversa. Sì, quello che facciamo lo sta facendo un milione di persone nell'agglomerazione di Liegi, non è così strano alla fine. Ma e questo approccio culturale diverso da dove nasce? Nel senso, c'è proprio un'educazione fin da bambini a utilizzare in maniera diversa i rifiuti? Ma secondo me è anche una questione di gestione politica della cosa, che in Belgio vale una regola per la gestione dei rifiuti. Il francese è pollueur payeur, che in italiano è quello che inquina paga, quello che fa i rifiuti paga i suoi rifiuti. Okay. E dunque c'è tutta questa politica per far pagare un costo reale ai rifiuti che butti. Okay. Non penso che ci sia una scusa antropologica che diciamo che in Italia non c'è modo di fare il porta a porta. Sì, sono proprio scelte politiche, insomma, e quindi è lì, cioè il tutto parte da quello, poi la cultura nuova uno se la può anche fare, no? Diventa consuetudine, sì, diventa abitudine. Sì, magari. Quando è imposto si fa, uh-huh. E se non lo fai paghi una multa, certo. Voglio dire. E comunque quando inizi a farlo capisci anche che si può fare e che anzi forse hai anche dei sì, benefici. Sì, alla fine si paghi meno. Assolutamente. Tecaia, grazie davvero per averci portato la tua esperienza. Chilopesa.it è il sito, dai che il 31 dicembre, il giorno dell'ultima pesatura, è vicino, quindi... Sì, ci siamo quasi. Ci siete quasi. Grazie davvero, grazie. Ciao, buon sabato, ciao. Europost-it. Questo Mare Nostrum europeo. Cosa hanno in comune Ceuta, un'enclave spagnola in territorio marocchino, Lampedusa e l'isola greca di Lesbo? Sono tutti luoghi di confine immersi nel Mediterraneo, oltre i quali inizia e finisce quella che noi tutti definiamo Europa. E questi territori di confine sono anche un simbolo, quello di un mondo diviso che vede l'Europa da una parte e il resto del mondo a lei circostante dall'altra. Questi luoghi e le persone che li abitano, con le loro storie, le loro visioni e le loro testimonianze, sono il centro della mostra fotografica Mare Nostrum, in corso a Milano allo Spazio Forma fino al 28 novembre. Il sito del progetto Mare Nostrum è immaginarideconfine.org. E chiudiamo la puntata di oggi con una storia, sono le storie che ci piace trovare e andiamo in una nazione che di fatto non abbiamo mai toccato in tutte queste puntate ed è il Granducato di Lussemburgo e ci andiamo insieme a Paola Cairo, una giornalista che si è trasferita lì nel Granducato, scopriremo il perché e non è stata insomma con le mani in mano, non se n'è stata con le mani in mano ma ha fondato anche una testata, insomma un settimanale, un mensile. L'unico mensile italiano del Granducato di Lussemburgo. Diamole benvenuta a Paola Cairo. Ciao Paola. Ciao a tutti, ciao Federico, ciao agli ascoltatori di Radio 24. Come stai? Molto bene, grazie. Allora, abbiamo trovato la tua storia sul sito vogliovivereecosi.it o .com, non mi ricordo mai la giusta dicitura del sito e chiedo scusa, ma poi metteremo il link nella nostra pagina in Facebook. È davvero il paese dei balocchi questo Lussemburgo? Beh, rispetto al resto d'Europa ancora resiste, nel senso che... potrebbe essere ancora identificato come il paese dei balocchi, anche se poi naturalmente ci sono dei problemi anche qui, però tiene duro, diciamo. Paese dei balocchi perché? Quali sono le caratteristiche che lo rendono di fatto unico? Ma soprattutto direi che è un paese vivibilissimo, è il 19° posto rispetto all'indagine Mercer sulla qualità della vita del 2010 e considerate che c'ha un reddito pro capite che si aggira intorno agli 80.000 euro. Un diplomato appena entra con un contratto di lavoro qui prende 1.700 euro, un laureato naturalmente molto di più. Ok, e leggevo anche che c'è una sorta di premio per i disoccupati, no? C'è un... Sì, si chiama chômage, praticamente l'indennità di disoccupazione. Naturalmente bisogna attenersi a certe regole, bisogna essere residente, bisogna aver lavorato per almeno un anno, però nel caso in cui si perde il lavoro, praticamente lo Stato ti rimborsa per un anno l'80% dello stipendio. Ok. Allora Paola, tu sei arrivata in Lussemburgo per amore, possiamo dirlo, no? Sì, perché no? Cioè già era una girovaga, persona che amava andare oltre confine, però hai messo radici lì. E lì hai scelto di portare avanti comunque la cultura italiana, perché comunque è una nazione molto vicina all'Italia, ci sono tantissimi intrecci. Sì, sì, sia intrecci storici che intrecci naturalmente diciamo politici, perché storici perché naturalmente non tutti sanno che il Lussemburgo ha una parte di storia intrecciata a quella italiana, addirittura c'era un vecchio imperatore che fece del Sacro Romano Impero di cui parlò Dante nel De Monarchia. Si tratta di Clemente V, no scusate, Arrigo, l'imperatore di Lussemburgo, che Dante addirittura lo fa sedere nell'anfiteatro dei Beati accanto a Beatrice. E quindi già la storia ci racconta il legame tra i due paesi, un legame che poi è stato rinforzato dall'immigrazione italiana che attiva qui dal 1870 circa. E vengono a fare cosa oggi gli italiani lì? Ma oggi soprattutto... Siete in tanti, tra l'altro, la comunità italiana è composta allora, da quante persone? La comunità italiana rispetto al registro l'AIRE, cioè il registro degli italiani all'estero che è depositato presso il Consolato d'Italia, conta circa 20.000 persone, però non dobbiamo tralasciare naturalmente tutte le persone che sono venute da centinaia, da decine di anni che si sono fermate qui e che hanno preso anche la nazionalità lussemburghese, quindi adesso sono d'origine lussemburghese, d'origine italiana, scusate, certo. Sono circa 40.000. Ok, comunque una città che fa dell'internazionalità, no? Una delle proprie caratteristiche. Assolutamente sì Federico, perché questa è anche la sede, il cuore delle istituzioni europee, perché molti sanno che sta tutto a Bruxelles, invece molte delle più famose, più importanti istituzioni come per esempio la Banca Europea degli Investimenti, come per esempio la Corte Europea di Giustizia stanno qui in Lussemburgo. C'è una parte di Parlamento Europeo, ci sono importanti direzioni generali della Commissione Europea e quindi diciamo è anche il cuore dell'Europa, dell'Unione Europea politica, ecco. Certo, e tu lì hai fondato Passaparola, questo mensile dove parli di italiani o di Italia? Sì. Ma parliamo di entrambi, innanzitutto devo dire che Passaparola non ci sarebbe stato se non avessi incontrato Maria Grazia Galati, che è la mia collega milanese, che ho incontrato e conosciuto proprio qui nel Granducato. Sì. E il giornale è nato nell'ottobre del 2004, quindi siamo al sesto anno di edizioni e parla anche dell'Italia, ma stiamo cercando di definire di più la programmazione editoriale sull'Italia e Lussemburgo, perché c'è molta Italia e Lussemburgo, dai ristoranti italiani all'associazionismo italiano, deputati di origine italiana, ministri abbiamo di origine italiana, quindi noi parliamo di tutte queste persone che vivono qui, che vivono la realtà italiana e Lussemburgo. Naturalmente con uno sguardo all'Italia, non se ne può fare a meno. E non ti senti mai un po' stretta? Perché alla fine comunque è un paese piccolo. Sì, è un paese piccolo, a volte anche un po' provinciale rispetto ad esempio alla capitale, quindi perché io sono nata a Roma, però ci dà la possibilità di viaggiare moltissimo, nel senso che c'è la Francia a 20 minuti, c'è il Belgio a un quarto d'ora, c'è la Germania accanto, quindi è facilissimo travalicare la frontiera. Anche nei weekend spesso andiamo nelle città vicine, quindi alla fine insomma si sta bene. Okay, insomma poi ti senti quindi nel cuore dell'Europa, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista politico e culturale, come ci hai detto poco fa? Sì. Sì, devo dire di sì, devo dire che in questo stato ho potuto fare cose che in Italia probabilmente non avrei mai potuto fare, fondare il giornale, condurre anche una piccola trasmissione radiofonica che abbiamo uno spazio su una radio nazionale il sabato mattina, proprio nell'orario, Federico, dell'Altra Italia. Quindi siamo concorrenti, ho capito. Siamo un po' concorrenti. Beh, magari una volta ci inventiamo una diretta in comune che ci può stare. Ma sì, perché no, perché no. Allora, intanto diamo il sito, passaparola.it. Info per chi volesse conoscere il mensile, questo periodico italiano in Lussemburgo. Un grazie a Paola Cairo, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao Paola, buon grazie. Sabato. Grazie a te Federico, buon sabato a te, alla redazione e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ciao.